Summertime di Elisabetta Fiorito. Con questa musica, con queste note che ci accompagnano, do il buon pomeriggio agli radioascoltatori e ad Emio Greco, una degli astri della danza contemporanea, che domani aprirà un festival molto importante, Oriente Occidente, a Rovereto, in provincia di Trento, e con una prima nazionale, Passione in due, di Emio Greco e Peter Scholten. Buongiorno, buon pomeriggio Emio. Buongiorno, buon pomeriggio a voi tutti. Che cosa vuol dire rilanciare la danza contemporanea in Italia, che è un paese un po' tradizionale, no? Dove è sempre molto difficile quando si parla di danza contemporanea? Esatto, bisogna anche passare da uno stereotipo che si è creato, forse che è cominciato a crearsi negli anni 80 e 90, in cui si pensava che la danza contemporanea era qualcosa di incomprensibile, passava soltanto per il cerebrale. Quindi a fine per creare un po', allontanare anche il pubblico ad avvicinarsi a un'espressione che in realtà danza contemporanea significa una connessione con il tempo, no? Cioè con il tempo presente, che proprio perché è contemporaneo e proprio perché è un linguaggio contemporaneo crea dei codici e li distrugge e non si fossilizza appunto su una forma definita, ma c'è comunque uno scambio e a volte anche delle emozioni molto forti che emergono, quindi il pubblico non deve essere spaurito dal fatto che non può connettersi, no? Che non può esserci emozione con la danza contemporanea. Ecco. Sì. Tu, per esempio, no, in questo Passione in due usi intanto le musiche di Bach e non magari le musiche dodecafoniche della danza, come dicevi te, quegli anni Ottanta, no? E poi queste musiche di Bach sono poi addirittura eseguite live, quindi c'è una danza contemporanea con una musica classica che però è facilmente riconoscibile dal pubblico, quindi già li accompagni verso un'emozione, insomma Bach non è mai semplice, ma insomma verso un'emozione più possibile, ecco. È vero, sì, Bach non è mai semplice, però come hai fatto intendere, c'è una connessione immediata che si dà con la sua musica, che vogliamo individuare come autentica, spirituale, insomma ognuno può usare i suoi termini, però è proprio vero, cioè la contemporaneità è proprio questa, no? Cioè potersi proprio metterti in dialogo con delle forme a volte anche arcaiche o barocche, come la musica di Bach, che stanno assieme, che comunicano, cioè quello che succede su scena tra noi due, tra me e Frank, il musicista, è proprio uno scambio di passioni, cioè ognuno propone la propria arte con la passione a cui dedica tutto il suo tempo, e complice tra queste due persone è appunto Bach. Senti Emio, noi abbiamo visto, no, le tue foto su tutti i giornali e poi il comunicato stampa ci parla di versione muscolare ed estrema della danza. Allora, ora ci devi spiegare in che cosa consiste, perché noi ci siamo spaventati. Dico, a Rovereto vedranno uno spettacolo di wrestling. Mi spavento anch'io, sì, non ho visto quello che mi hai detto, ma a volte ci sono delle semplificazioni che riducono molto tutto il pensiero, no? Poi la sensibilità, l'articolazione che c'è nel lavoro. Sì, ovviamente c'è un impegno fisico, c'è una presenza di un'ora, di una persona che il corpo di un danzatore, diciamo, di un uomo che inizia, cambia, si trasforma, c'è certamente questo fatto di muscoli, di pelle, ma c'è anche tutto un altro immaginario nascosto, c'è una sensibilità, a volte anche una fragilità, direi, che non è così chiara, no? Manifesta, muscolare. E non tutto, penso la posizione dell'arte è anche proprio quella di posti in una situazione di pericolo, no? Cioè dove no, non è tutto definito, non è tutto muscolare, ma c'è tantissimo spazio per la contraddizione, per il contrasto, per il non sapere a volte addirittura. Senti, tu dici che tuo padre era un contadino, no? Sì, e sì. Che addirittura prima di fare il contadino era un pugile e, sì. E ti ritrovi contemporaneamente sì. Sì, ecco. Sì. Ti ritrovi praticamente sul palcoscenico, quando tu entri in palcoscenico questa sensazione che stai entrando in un ring, cioè che c'è una lotta tra te e il tuo corpo, tra la tua mente e il tuo corpo? Sì, è quello, è vero, che avevo detto una volta anche per manifestare la situazione di conquistare uno spazio, no? Cioè, secondo me, quando sei su scena non bisogna mai essere, almeno io non sono mai sicuro, nonostante le linee sono state definite, il concetto è chiaro di quello che può succedere, è come andare a creare quel momento quell'ora che sia un'ora o due che sia davanti. Quindi una volta, ogni qualvolta è una conquista, cioè bisogna proprio posizionare, io mi posiziono proprio in questa lotta positiva, poi, che può essere anche di dialogo o di scambio in parallelo, e non sono mai adagiato non mi adagio mai su una forma o su una linea dove so che lì c'è, diciamo, armonia, bellezza. Se c'è quell'armonia e la bellezza, magari la riconosco, ma sono pronto anzi, devo essere pronto a sfuggire quasi, a non lasciarmi intrappolare. Allora, ricordiamo quindi l'appuntamento a Trento, cioè in provincia di Trento, a Rovereto, apre domani il Festival Oriente Occidente con Ennio Greco. Abbiamo sentito, lo ringraziamo anche per la sua delicatezza nell'esprimere dei concetti anche molto molto difficili, e ringraziamo anche di essere una delle star contemporanee della danza, quindi un fiore all'occhiello per l'Italia, e ricordiamo che il festival va avanti fino al 9 settembre. Grazie Ennio. Grazie a voi, io spero di vedervi domani. Se ne dicono di parole, gocce come quando piove, del silenzio che c'è poi, resta l'eco dentro noi. Se ne dicono di parole. E noi ragioniamo, sì, ragioniamo, siamo esseri umani, cogito, ergo sum, no? Ma non solo, anche parlo dunque sono. Sì, perché noi andiamo al Festival della Mente di Sarzana, in provincia della Spezia, arrivata la 9ª edizione, che inizia oggi, e parliamo con Andrea Moro, perché ci spiega il linguaggio attraverso i secoli. Insomma, ci incontriamo a Sarzana, al chiostro di San Francesco, alle 19.30. E che cosa succede, Andrea? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Succede che ci provo a portare il pubblico in una specie di microviaggio in tre tappe all'interno del linguaggio. E nella prima puntata, per così dire, parlerò del linguaggio attraverso i secoli. Cercherò di far vedere che c'è talmente tanta abbondanza di teorie sul linguaggio che è un po' come guardare il cielo stellato. Ognuno si costruisce la sua costellazione congiungendo le stelle che preferisce. E l'analogia col cielo, secondo me, è attinente anche perché alcune delle idee che noi abbiamo sul linguaggio in realtà sono morte da tempo, sepolte, un po' come certe stelle la cui luce ci arriva lo stesso. Dunque la prima serata sarà la costruzione di questo planetario di idee sul linguaggio, e inizieremo con la domanda di qual è stata la prima lingua parlata. Parleremo di Erodoto, parleremo dei frati medievali che avevano una loro teoria, e poi concluderemo sulla grande domanda che è come fanno i bambini ad apprendere il linguaggio. Questo sarà tutto nella prima serata. Allora, lei è professore ordinario di linguistica generale alla Scuola Superiore Universitaria di Pavia, no? E quindi è un glottologo, non lo so, perché io nei miei studi universitari mi ricordo che c'era questo esame terribile, che era l'esame di glottologia, in cui si analizzava il linguaggio dal punto di vista sincronico, dal punto di vista diacronico, e De Saussure e Jacobson, insomma. Aiuto! Mi mette in imbarazzo, poi faccio la fine del primario che non ha passato il test di ammissione a medicina, perché lei tocca un punto decisivo. La linguistica vede veramente come un universo, come la fisica, si divide in tanti capitoli, in tante sottoparti. In Italia c'è una grandissima tradizione di studi glottologici, che sono proprio quelli in cui siamo stati immersi, è stato immerso io evidentemente anche lei, in cui la comparazione tra le lingue, lo studio del mutamento fonetico, i dialetti, stavano al centro dell'attenzione. Poi pian piano anche in Italia si è espanso anche un altro tipo di indagine, che è quella che fa fare un passo avanti alle neuroscienze. Tutti sappiamo che il linguaggio dipende dal cervello, ma c'è una domanda scottante che inizia a emergere in questi anni ed è questa: ma anche la sintassi, le regole, la grammatica che noi parliamo dipende dal cervello o è libera completamente di cambiare da una lingua all'altra? Ecco, questo sarà proprio il tema dell'ultima delle serate, cioè linguaggio e cervello. Cercherò di portare degli esempi da questi esperimenti fatti costruendo lingue impossibili, cioè lingue che non assomigliano a nessuna lingua parlata al mondo, e esplorare che cosa succede al cervello quando si tenta di imparare queste lingue marziane, per così dire. Lei ci ricorda un po' quel personaggio, no, del Nome della Rosa, che parlava tutte le lingue e nessuna. Ma lei ha parlato poi una cosa, una curiosità, perché ha detto: parleremo del linguaggio dei frati medievali. Che codice usavano, tanto per? I frati medievali erano forse, almeno per il mio gusto, per la mia passione, sono stati forse tra gli studiosi maggiori del linguaggio. Avevano almeno due filoni interessanti. C'erano quelli che consideravano il linguaggio come una specie di specchio della realtà. E allora si arrivò fino alla fine del 200, quando Ruggero Bacone disse quella famosa frase che esiste una sola lingua e che le differenze sono degli accidenti. E poi in realtà c'erano anche altre riflessioni nel Medioevo. E sembra, curiosamente, perché sembra quasi una battuta, per esempio sul linguaggio degli angeli. Ora, nessuno di noi ha mai sentito un angelo parlare, supposto di credere che esistano gli angeli. Io per esempio ci credo, però non li ho mai sentiti parlare. Allora perché parlare del linguaggio degli angeli? Perché in qualche modo ti permette di astrarre dalle proprietà specifiche, contingenti delle singole lingue e cercare di indagare qual è la struttura astratta che sta sotto questo strumento meraviglioso che in questo momento io e lei stiamo utilizzando e chi ci ascolta sta decifrando. Professore, allora la ringraziamo. Grazie a lei, grazie a tutti voi. E ricordiamo, parlo dunque sono, e tutto questo al Festival della Mente di Sarzana, che inizia oggi il 31 agosto, ma poi prosegue con molti appuntamenti, addirittura Cosa pensava una donna nel Medioevo, insomma, basta ritrovarsi in questa splendida località in provincia di La Spezia. Grazie. Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E noi andiamo a Caserta Vecchia, perché domani fino al 7 settembre c'è Settembre al Borgo, giunto alla 42esima edizione, e abbiamo sentito le note di Sergio Cammariere, che è uno degli ospiti più attesi. Ma parliamo di quello che succede a Caserta Vecchia con il direttore artistico Casimiro Lieto. Buon pomeriggio, Casimiro. Buon pomeriggio, qui fervono i preparativi anche per Sergio Cammariere, ma per tutto il grande cartellone che stiamo per allestire. Ormai manca pochissimo, stasera all'anteprima, da domani si comincia, è un festival nutritissimo, molto ricco, 60 eventi per 7 giorni, con tanto spettacolo da palcoscenico, ma soprattutto un borgo medievale come quello di Caserta Vecchia che si trasforma in una straordinaria e caratteristica ribalta, e poi alcune novità come la Summer School di Ramin Bahrami, che offrirà a Casertavecchia l'occasione per diventare anche per la prima volta uno straordinario campus per giovani pianisti che arriveranno da tutta Italia e avranno l'opportunità di vivere 7 giorni con il grande pianista della tradizione bacchiana, vivere e raccontare con lui la vita di 7 grandi compositori della classica, fare delle performance di sera e poi avere anche l'occasione per potersi confrontare con il pubblico del festival. Diciamo una grande cassa di risonanza a cielo aperto, che vivrà anche di vicoli, di recupero della musica popolare della tradizione, di sorrisi, di risate e, come dicevate, anche di grandi nomi da prima serata. Senti, quest'anno il festival si intitola Resistenze, anzi R tra parentesi Esistenze, perché vuole dimostrare di esistere senza mollare. Allora, quindi immagino che abbiate avuto molte difficoltà a metterlo su. Sintesi giornalistica inappuntabile, sì, diciamo che abbiamo molto faticato. Questo è un festival che esiste, dunque resiste e resisterà. C'è stato un imbarazzo a cavallo della metà di luglio, quando stava saltando tutto, noi con altri eventi della regione Campania, poi si è riuscito a recuperare, si è premiata la storicità, anche la macchina organizzativa, l'affidabilità dei gruppi di lavoro e anche dei ragionamenti, dei pensieri che in qualche modo nel tempo si erano arroccati, come quello di Casertavecchia e del suo festival, su questi piccoli avamposti di cultura che hanno saputo in qualche modo resistere al tempo e riconfigurarsi ogni volta con delle dimensioni e degli orizzonti diversi. Allora, andiamo al cartellone. Aprite domani, sabato 1 settembre, Alex Britti e Stefano Di Battista. E poi bellissimo evento, e poi abbiamo una scansione molto serrata e ritmica. No, poi vedo dall'altra parte c'è invece a Piazza Vescovado Francesca Reggiani, quindi sì. Diciamo è un festival multilayer, se potessimo definire. Multilayer, sono tanti piani, una grande mille foglie dello spettacolo, con delle sequenze orarie diverse. Il festival comincia già ad animarsi dalla mattina con la scuola a cui facevo riferimento, poi dalle 7 in poi si comincia con gli eventi dedicati alla musica classica e quindi con i giovani talenti che arrivano da tutta Italia. A 7:30 reading d'autore con tutti gli amici di Un Posto al Sole, che potremmo ribattezzare Un Posto all'Ombra. Alle 8 i vicoli, gli anfratti e i cortili del borgo si animano di gruppi della tradizione popolare itineranti, sono dei pifferai magici che porteranno in giro il pubblico. Alle 8:30 si accende la Pineta di Casertavecchia con un progetto molto bello dedicato alla salvaguardia della terra. I visitatori che entreranno nel borgo potranno interagire con un software e colorare a loro piacimento questa pineta. Poi 8:30 spettacolo in prima serata alla Torre e seconda serata dedicata alla grande comicità. Allora, vediamo un attimo i nomi. Domenica continuate con Nina Zilli, poi lunedì avete Samuele Bersani, che voglio dare una assoluta anteprima alla vostra radio. Quest'anno è il vincitore del premio Triceronte. Ogni anno il festival premia una storia da palcoscenico. Quest'anno sono i 20 anni di Samuele, 20 anni di canzoni, ma anche di una musica ragionata, piena di riflessioni e anche di aperture. Sarà lui il vincitore del premio Triceronte. Poi il 4 c'è Alessandro Mannarino, il 5 arrivano Elio e le Storie Tese, il 6 l'abbiamo appena sentito Sergio Cammariere, il 7 c'è un piccolo omaggio che abbiamo voluto fare alla Casertanità e che ci siamo voluti un po' consentire, è il Flauto Magico secondo l'orchestra di Piazza Vittorio, una bellissima esperienza multietnica che affonda le sue radici proprio a Caserta. Senti, a parte il vocabolario ti sfotto un po', no? Il premio Triceronte in un festival multilayer, lo potremmo definire così. Senti Casimiro, un festival che ha 42 anni, quanta gente arriva a Caserta durante queste giornate, a Casertavecchia? Allora, è un festival che, mi riferisco ai numeri dell'anno scorso, che sono numeri che abbiamo monitorato anche con le forze dell'ordine. Il borgo, che di per sé è un borgo molto piccolo, è un borgo medievale dove nel 70 e passa venne ambientato il Decamerone, è un borgo che attrae complessivamente, come l'anno scorso, circa 30.000 visitatori, che in sostanza vivono a più dimensioni questo borgo. E dall'anno scorso succede anche un'altra cosa, che il borgo ogni sera si gemella con altre 7 città, sforando in queste 7 città con un piccolo spettacolo itinerante, un piccolo circo che arriva, sconquassa una piazza, scarica sedie, una mezzarena, degli impianti di proiezione d'altro, e si gemella in un'operazione di marketing territoriale, ma anche un'operazione di grande coinvolgimento. Insomma, è un festival che esce dalla sua tradizionale sede e, come dire, e si fa guidare un po' dalla sua forza centrifuga. Senti Casimiro, noi allora vogliamo assolutamente venire a Caserta Vecchia. Che cosa dobbiamo fare? Autostrada verso Napoli? Molto facilmente si esce, è l'autostrada Roma-Napoli, uscita Caserta-Nord, si prosegue per le indicazioni per Caserta Vecchia. Ci sono moltissimi parcheggi che vi accolgono all'ingresso del borgo medievale. Il borgo medievale non si attraversa per tutto il festival con le autovetture, quindi è chiuso al traffico veicolare, quindi solo attraversamenti pedonali. Lo si vive con, oltre alla sua accoglienza, parliamo di una struttura medievale che peraltro ha degli antefatti del 1100, quindi si gode anche di un'architettura molto particolare. E poi non dimentichiamoci l'aspetto enogastronomico che, come dire, fa l'altra parte della medaglia, e quindi grandissimi prodotti tipici, ottimo vino locale e soprattutto ospitalità generosa di chi ci abita, che non aspetta altro che poter, come dire, accogliere i visitatori del festival. Allora, 42esima edizione di settembre al Borgo, ringraziamo il direttore artistico Casimiro Lieto che ci ha veramente illustrato un cartellone assolutamente da non perdere. Si apre domani dal 1 al 7 settembre, abbiamo sentito molti gli ospiti, tra cui Sergio Cammariere, ma anche Alex Britti, Samuele Bersani, Alessandro Mannarino, l'orchestra di Piazza Vittoria, chi più ne ha chi più ne metta. Grazie Casimiro. Grazie a voi, ricordo www.settembrealborgo2012.it. Viva la radio. Ciao. Con Stabat Mater e su queste note andiamo a Iesi, ad Ancona, dove stasera fino al 16 settembre c'è il 12° Festival Pergolesi Spontini. Allora, parliamo con il soprintendente William Graziosi per capire che cosa succede proprio a Iesi in questi giorni. Buon pomeriggio William. Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio. Allora, è un festival che è un festival particolare di musica classica, poi sostanzialmente, o no? Sostanzialmente sì, diciamo che siamo una terra privilegiata, in quanto nell'arco di 5 chilometri sono nati due grandi compositori come Giovan Battista Pergolesi a Iesi e Gaspare Spontini a Maiolati Spontini, appunto. Quindi due grandi compositori della storia universale della musica che si sono contraddistinti per due stili, uno barocco, l'altro il creatore del Grand Opéra, dovendo celebrare Napoleone alla sua corte a Parigi, hanno creato due stili inconfondibili e che hanno fatto di questi due compositori comunque due compositori facilmente riconoscibili e comunque nelle enciclopedie universali con pieno diritto. Ecco, e il festival alterna musiche, appunto, come dicevi tu, di Spontini e Pergolesi, ma anche di altri autori. Sì, noi facciamo un festival che vuole dare un'idea di quella che è stata la musica nei periodi dei due compositori. Abbiamo chiuso l'anno scorso la celebrazione del 300° anniversario della nascita di Pergolesi nel 2010 con il Tutto Pergolesi. L'abbiamo messo in scena tutto quanto, quello che Pergolesi ha scritto veramente. Da quest'anno riprendiamo un percorso su Gaspare Spontini che ci porterà ad affrontare quest'anno l'ultima opera che lui ha scritto nel suo periodo napoletano, dagli anni prossimi il grande Spontini, quello del Grand Opéra, e ovviamente nel momento clou che sarà stasera con la prima della Fuga in Maschera, un'opera che era data persa e che Sotheby's ci ha segnalato essere in possesso di una collezionista, la signora Cox, che ce l'ha messa a disposizione, l'abbiamo comperata, quindi la Fuga in Maschera era data persa, dopo 212 anni viene rimessa in scena. Gli altri appuntamenti raccontano che cosa c'era a Napoli e che cosa si è sviluppato sulle orme di questo grande compositore. Ecco, vedo che infatti in molte opere che voi metterete in scena il protagonista è Pulcinella, poi proprio la maschera napoletana. Sì, perché dal tema La fuga in maschera abbiamo dato anche il tema al festival, trasformazioni e trasformismi e quindi tutto quello che riguarda la maschera come trasformazione dell'essere umano in tutti i sensi. Come si articola il festival? Vi incontrate praticamente alle 21, i concerti sono alle 21, no? L'opera è alle 20, quindi stasera e domenica alle 20, poi c'è un concerto sabato alle 21 e poi i seguenti due fine settimana. Abbiamo voluto concentrare nei fine settimana per permettere in questo periodo che è ancora estivo, ma magari per qualcuno è già iniziato il lavoro, di potersi spostare in questo territorio che probabilmente non è conosciuto come merita. Le Marche sono una regione ancora da scoprire, dove si dorme bene, si mangia bene, si vedono dei posti stupendi. Per chi non conosce la Vallesina, è comunque ricca di castelli, dei famosi castelli di Jesi, del verdicchio dei castelli di Jesi, tanto per citare il vino più famoso, dei castelli che sono veramente belli, visitabili. Vicino abbiamo le grotte di Frasassi, che sono un luogo unico al mondo, e siamo nella regione che come slogan ha tutto in una regione, l'Italia in una regione, perché abbiamo il mare, le montagne, le colline, quindi venite numerosi. Assolutamente. Senti, poi vedo un'ultima cosa molto carina, che a un certo punto farete un concerto venerdì 7 settembre con i Crystal Sound, dove c'è Bach, Beethoven, Verdi eppure Ennio Morricone. È una glassarmonica in realtà, sono bicchieri ed è uno strumento in tutto e per tutto. Questo bravissimo musicista lo suona con la punta delle dita, con ogni bicchiere un limite di acqua che fa sì che quel bicchiere metta la nota giusta, e quindi da questi bicchieri verrà fuori un suono che è veramente ancestrale, un suono dal mondo alieno sembra, però è veramente molto accattivante, molto entusiasmante. Allora, ringraziamo il sovrintendente del 12° Festival Pergolesi Spontini, William Graziosi. Lo ricordiamo, da stasera fino al 16 settembre a Jesi, in provincia di Ancona, e come ci ha detto anche William, un'occasione per conoscere questa bellissima regione che sono le Marche. Grazie. Grazie a voi. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e Alessandro Chiappini in regia. Ringrazio la bravissima Antonella Migliaccio in redazione. Summertime finisce qui anche quest'anno. Io vi auguro un buon rientro dalle ferie, un buon weekend da Elisabetta Fiorito.